Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Ieri sera a Corsico Milanese è stato celebrato il conseguimento per la prima volta in Italia del certificato LEED Platinum da parte di un grande edificio, diciamo tipo un centro direzionale. Parliamo del protocollo LEED 2009 Italia NC, che è un protocollo specifico dedicato ai grandi edifici di nuova costruzione, quale è appunto Habitat Lab, ricavato all'interno dell'area abrasivi di Saint-Gobain, che utilizzerà questo nuovo edificio come intanto showroom delle tecnologie che la stessa azienda sviluppa nel settore dell'efficienza energetica e anche come centro di formazione e centro di ricerca. LEED, lo ricordo, LEED, è il più diffuso standard internazionale di certificazione degli edifici e anche uno dei più completi, dato che non accoglie solo aspetti di carattere energetico, ma tiene in considerazione anche aspetti come per esempio i materiali utilizzati per costruire, il consumo di acqua, di suolo, i collegamenti con i mezzi pubblici. In base alle performance dell'edificio in tutti i vari settori viene attribuito un punteggio e con 90 punti su 110 totali Habitat Lab è il secondo edificio in Europa per punteggio più alto. Ne parliamo con Alberto Lodi, segretario generale di Chapter Lombardia, che riunisce i soci lombardi di GBC Italia, cioè Green Building Council, che è la realtà di riferimento per il protocollo LEED appunto in Italia. Buonasera Lodi. Buonasera, buonasera Melis. Allora Lodi, intanto una bella notizia, no? Insomma, questo edificio. Lei conosce il progetto, le chiedo un po' di dirci insomma che cosa ha di speciale. Intanto per raggiungere un punteggio così credo che si debba curare un po' tutto, no? Sì, bisogna curare effettivamente tutto. Questo progetto devo dire che colpisce per la completezza degli aspetti che sono stati considerati e quindi appunto per i punti che sono stati acquisiti. Soprattutto colpisce un 100% di punteggio che è stato acquisito a livello dei crediti collegati alle produzioni energetiche, okay, e alle conseguenti produzioni di inquinamento, e anche il 100% di punteggio raggiunto nella famiglia dei crediti delle acque, cioè la gestione delle acque, okay, il risparmio delle acque. Poi c'è un terzo fattore che a mio avviso è degno di nota, che è l'utilizzo di tecnologie per nell'ambito dell'innovazione nella progettazione, tecnologie che consentono di rimuovere la maggior parte dei composti organici volatili presenti, okay, nell'aria all'interno dell'edificio. I VOC, che sono quell'odore che noi associamo alla casa pulita, per esempio, ma che in realtà sono delle molecole organiche piuttosto anche pericolose per la salute. Ecco, senta, il protocollo LEED, dicevamo, è il più diffuso standard internazionale, soprattutto sui edifici di grandi dimensioni, però è sbarcato in Italia da pochi anni. Le chiedo un po' come procede la diffusione di questa certificazione ambientale. Ma guardi, il protocollo LEED insieme, mi permetto di citare anche il protocollo BREEAM inglese, sono i due protocolli internazionali, entrambi di origine anglosassone, che hanno preso più piede. In Europa, e LEED sicuramente più piede nel mondo, viene utilizzato praticamente in tutto il mondo, anche in Cina, in Russia, in Sud America. Devo dire, in Italia la sostenibilità è arrivata nel momento in cui Il mercato immobiliare, insomma, lei dice. Il momento economico era il meno favorevole, certo. Ecco, per cui è difficile fare una misura dello sviluppo dell'edilizia sostenibile in Italia considerando gli anni in cui questo sta avvenendo. Cioè diciamo che come benchmark non va tanto bene, però mi pare di poter dire una cosa. Io insomma seguo questo mondo e mi sembra che ormai le grandi multinazionali, le grandi aziende non comprerebbero mai un edificio che non sia certificato, LEED o non LEED, non importa, però un edificio di cui non siano ben note le caratteristiche e appunto certificate. Sì, in effetti è così. Questo sostanzialmente per due ordini di motivi, credo. Il primo è che una certificazione oggettivamente arriva a produrre dei costi gestionali decisamente minori rispetto agli standard dell'edilizia. Certo, certo. Del garantisce che poi tipo costerà meno mandare avanti la baracca, diciamo sì, così. Questo è fatto vero, ma c'è anche l'immagine e c'è un processo di identificazione tra l'immagine aziendale, quindi un'azienda che vuole darsi dei valori di sostenibilità come corporate, e la sostenibilità che è testimoniata dal luogo in cui l'azienda opera. Grazie Alberto Lodi. Grazie a lei. Anche per stasera è tutto, appuntamento a lunedì.